Dopo il semaforo scatenate l'inferno. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Secondo me sarebbe stata la sfida più grande se fossi partito nella griglia normale. Partendo da ultimo, sinceramente non so cosa aspettarmi, ecco. Però sarà già una prova dare il massimo e rimanere concentrati e fare una bella gara. Poi purtroppo non dipenderà tanto da me, ecco. Queste sono le regole del gioco e bisogna accettarle. Sperare di essere comunque forti e competitivi per continuare a divertirsi, ecco. Cosa hai pensato quando hai visto che anche Jorge aveva cercato di entrare nel procedimento al TAR? Non lo so, sono rimasto sorpreso. E un'altra, suo papà ha detto che fa tipo per te, bene o male. Chi? Papà di Jorge ha detto che la punizione è esagerata, Marco ha rotto le palle, doveva essere punito lui, se tu vinci il mondiale a 36 anni sarà qualcosa di esagerato. Grazie, ringrazio il babbo di Lorenzo. Ragazzi, io già non riesco a staccare gli occhi dal video nella seconda sessione di prove libere del venerdì. Rossi comanda questa sessione, manca 38 minuti alla fine, appena cominciata. 1:31.851 la mattina più veloce, Marquez 1:31.250 davanti Lorenzo, staccato di 184 millesimi, terzo Pedrosa, staccato di 303. Quarto Dovizioso e quinto Valentino con un ritardo di 415 millesimi. Valentino, abbiamo visto fare di tutto su una moto, su due ruote, manca una sola cosa, un miracolo tecnico, agonistico, emotivo. Il weekend più atteso della storia del motociclismo è cominciato, ma sarà un fine settimana stellare per mille motivi, non solo motociclistici. Il derby di Roma, casino delle curve compreso, la Juventus sorvegliata speciale ad Empoli, quelle di Milano chiamate ad un altro squillo e poi ne troviamo delle altre, se volete. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao, che è come stare qui a guardare lo stretching prima di una partita di calcio e pensare di trarre qualche indicazione utile. Sì. È una patologia, eh? Sai, hai visto mai che succede qualcosa. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Anche tu sei davanti... Siamo già in tensione. Anche tu sei davanti alle prove libere, no? No, diciamo che altre volte non me ne fregava veramente di meno, questa volta invece mi sembra che veramente anche i non appassionati di motori e di MotoGP siano chiamati alle armi, ovviamente. Siano chiamati alle armi. Sì. No, c'è un quesito interessante, Giovanni. C'è una cosa che chiediamo a Pardo, ma a tutti gli ascoltatori 800240024, compresi Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Giovanni Melchiorre in redazione. Qual è il quesito? Evochiamo lo spirito delle grandi rimonte italiane nello sport, quelle che sono entrate dritte nella leggenda, dove tra l'altro ha l'opportunità di finire anche Valentino Rossi, perché se gli riesce va direttamente nel mito, che secondo me è una cosa che anche sta sopra la leggenda. Quindi noi evochiamo. Io dico quella che mi ha colpito di più, ho fatto una ricerca anche stamattina, ho trovato tra l'altro la meravigliosa voce di Bruno Gattai, sì. Chi ha una certa età se lo ricorda, Alberto Tomba, Lillehammer 1994, sì. Olimpiadi, prima manche, 2 secondi, 12esimo, medaglia d'argento a 15 centesimi da quella d'oro. A te ne mette qualcosa, Pierluigi? Così su due piedi no, francamente. A me sono venuti in mente come due. Rimonta, dico. Una contro italiana, quella del Liverpool sul Milan. Ho capito, no? Italiani, infatti, non lo evoco questo spirito. L'altra, essendo appassionato di pallacanestro, quella di Milano contro l'Aris Salonicco, meno 38, certo, se non ricordo. Meno 33. Meno 33. Poi 34. No, più 37, credo. Comunque, io c'ero. Se viene in mente qualcun altro, 800240024 è il numero verde. Allora, giusto per darvi un'idea, adesso c'è il traffico, poi parliamo un po' di pallone, perché triplete di Napoli, Lazio, Fiorentina, euro settimana da 4 vittorie e un pareggio. poi parleremo un po' di derby, poi di derby della capitale, poi proveremo a fare uno squillo a, al papà di Valentino, a Graziano Rossi, e poi le vostre telefonate, e poi molte altre cose, anche e soprattutto relativa a Moto Mondiale dopo il GR. Intanto traffico. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Attenzione a Callejon, Valdifiori lo cerca, Callejon! Era tutto solo, 5-0, José María Callejon. Fatto una grande partita di squadra, siamo stati uniti fino alla fine senza subire gol, è quello importante, e sicuramente se continuiamo così possiamo arrivare fino in fondo. Di dentro splendida palla per Ilicic che prova ad andare, c'è Kalinic lì da solo, Ilicic, Josip, Ilicic, 2-0, doppietta di Ilicic. Scudetto è migliorarsi giorno dopo giorno, individualmente e collettivamente, avere una cultura sempre vincente, saper soffrire in certi momenti della partita come è stato oggi. Onazi avanza, palla al piede, c'è Georgevic largo, Onazi tocca per Georgevic, è doppietta all'esordio da titolare in Europa League per Filip Georgevic. È vero che dopo due sconfitte non era facile entrare subito in questa partita, ma noi stasera abbiamo fatto molto bene e meritiamo questi tre punti che sono molto importanti per dare la fiducia alla squadra. Questo ricordo, forse un omaggio a quanto è successo ieri sera, al triplete delle squadre italiane in Europa League, Napoli, Lazio e Fiorentina, tutte e tre vincenti, con Napoli che è una macchina da guerra, la Lazio che ha ripreso un po' di colore e la Fiorentina che si è rimessa in corsa su un campo non banale. Intanto su Twitter, spirito delle grandi rimonte, abbiamo evocato con Giovanni Capuano, Dinamo Kiev Inter 1-2, la partita della svolta. Questo vero, raccogliamo. Raccogliamo e teniamo anche chi scrive il famoso 5 maggio. Famoso, ovviamente, ricordo dolcissimo per gli juventini, un po' meno per gli interisti. Però. Primo Marquez, secondo Rossi, terzo Lorenzo, quarto Espargaró. Alex Espargaró. Io sto da voyeur, sto spiando le facce dei piloti. Lorenzo è una maschera di cera, gli occhi di Valentino Rossi io sinceramente così non li ho mai visti. Paolo Condò, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Giuseppe, speriamo a proposito di Valentino. Sì, speriamo. Chi è Giuseppe? Giuseppe chi è? Giuseppe, no, Garibaldi, scusa, un altro che ha rimontato. C'è anche Gianluigi Pardo, Sì, no, io tra Giuseppe e Giovanni ho sempre fatto confusione. Ma anch'io, invoco la clemenza della corte. Anch'io faccio Giuseppe e Giovanni, ma non so perché. Non so piacere questa cosa. Gianluigi Pierluigi? No, Gianluigi Pierluigi è un mistero della fede. È un grande classe. Pierluigi è facile, ma Gianluigi... Gianmarco, Però ciò nonostante ti assicuro che è pieno di gente che Gianmaria, che ci chiama Gianluigi, perché il problema è di tutti Pierluigi d'Italia. Adesso ci siamo costituiti, compreso Buffon. Esatto, in realtà io i Gian li chiamo tutti Gian. Per non commettere errori, li chiamo tutti Gian. Io chiamo tutti Ciccio per evitare problemi. Una cosa molto semplice. Pensa che non lo sa nessuno, neanche mia mamma, credo se lo ricordi, ma mi chiamo Giancarlo. Incredibile. Giancarlo Genta. Incredibile. Quindi Gian. Tanto abbiamo davanti Gianmarco. Gianmarco. Dietro il vetro, di, no? Giancarlo Genta di Gazzetta TV, ovviamente. Claro. Quindi siamo Pier, Gian e Giovanni, praticamente. Tipo Aldo, Giovanni e Giacomo oggi. Esatto. Va bene, per ingannare la tensione, continuiamo a cazzeggiare così sui nomi fino alla fine. Fino alla fine della. Stai così a 48 ore dal fischio d'inizio del Gran Premio. Gianluigi, tu sai quella mia passione per le moto, i motori, eccetera, quindi io sono teso, certo. Sono teso ormai da tempo, devo farmi di ansiolitici. Se, no, Ascolta, anzi ascoltate, Napoli macchina da guerra, ragazzi. Napoli macchina da guerra, il prodotto del turnover dimostra una volta in più, secondo me, l'eccellenza del lavoro di Sarri. Poi Gabbiadini devi incatenarlo in panchina a questo punto, Paolo Condò. Beh sì, ma io credo che le prospettive del Napoli quest'anno sono talmente di gloria, orizzonti di gloria, che penso che anche uno che gioca meno non avrà una gran voglia di andare via a gennaio, perché questo è l'anno nel quale hai una percezione molto chiara che qualcosa alla fine resterà a casa, cioè arriverà a casa sotto forma di trofeo in una bacheca, che sia il campionato, che sia l'Europa League, o perché non entrambi, perché vietarsi di pensare al massimo. E quindi generalmente un giocatore, soprattutto giovane, che non ha ancora vinto nulla in carriera, di fronte alla possibilità di una simile medaglia, sopporta, credo, non più di una stagione, nel senso che non penso che un anno prossimo in questa situazione possa aver voglia di rimanere, ma a gennaio, per me, con la prospettiva di vincere, lui rimane. È chiaro che a questo punto che cosa succederà? Se tutto prosegue così bene, ecco, quando in Europa League arriveranno degli impegni più probanti di quelli che sono stati fino a questo momento, arriverà la tentazione di mettere Higuaín anche lì. Sì. Naturalmente. Sì, ma c'è tempo, eh? C'è tempo, certo, perché l'Europa League è una lunga maratona. Adesso Gabbiadini ha la possibilità di diventare capocannoniere dell'Europa League, nel senso che il Napoli ha già fatto 4 gol lui in 4 partite, adesso ce ne sono altre 2. Sicuramente giocherà titolare. Ieri Sarri in conferenza stampa ha detto che comunque lo vede come una punta centrale, il che da un lato ovviamente è una buona notizia, perché quando gioca la punta centrale ovviamente è più facile che segni, e dall'altra è una pessima notizia, perché in quel ruolo lì c'è Higuaín. Da questo punto di vista Gabbiadini è veramente sfigato, perché in nessun'altra squadra secondo me avrebbe la porta così chiusa come nel Napoli. Vero. Come attaccante esterno chiaramente si fanno preferire Insigne e Callejon, credo soprattutto per un discorso di copertura, quindi di aspetto tattico, e quindi Gabbiadini in questa condizione un po' di sospensione. Però ti dico la verità, la partita di ieri da un lato secondo me va a dissipare ogni possibile tentazione di pensare, come dice qualcuno, che Napoli abbia poca panchina. Napoli è una panchina pazzesca in questo momento, mi sembra quella che sta messa meglio anche da questo punto di vista, e dall'altra è ovviamente una... Non sono tantissimi però, non sono tantissime. Chi 18 che possono fare colpo di stato? Una squadra italiana che ha una rosa più profonda di quella del Napoli? Forse la Roma, forse la Juventus. La Roma? No? La Roma, adesso, per carità, c'è un'emergenza mostruosa, perché l'altro giorno è successo di tutto. Io parlo a ranghi con la Roma dietro, sono contati. La Roma, dietro sono contati. Campo sono contati, perché Wenger, con tutto rispetto, insomma, già l'abbiamo visto parecchie volte. L'abbiamo visto più di Valdifiori ultimamente, Wenger, no? Quindi io sono, non sono convinto di questo. Io penso che il Napoli, il problema del Napoli semmai è che c'è ancora il mercato, c'è una sessione di gennaio. Se io fossi De Laurentiis, chiederei il decreto ancora, per annullare la, perché in questo momento però potrebbe anche spendere due soldini il signor Aurelio, eh. Sì, ma è quella che ne ha meno bisogno, perché chi è che tiri fuori della formazione? Ma non c'è titolare nessuno, Paolo, nessuno. Appunto. Sì, puoi aggiungere Widmer, che può essere un'occasione perché sta giocando poco a Udine, puoi aggiungere Badu, ma insomma, voglio dire, di che stiamo parlando? Cioè, io credo che il discorso che sta facendo Pier non è soltanto a proposito del mercato da chiudere nei panni del Napoli, non è soltanto per il Napoli, ma anche perché ci sono altre squadre che si potrebbero rimportare. Appunto. Il problema è la Roma. Il problema è la Roma, soprattutto se supera il turno. Roma prende Benatia, fa un salto di qualità pazzesco. Certo. Ecco, e quindi al Napoli converrebbe, andando ovviamente un paradosso quello di cui stiamo parlando, perché non è possibile, nemmeno ce lo auguriamo, per Napoli converrebbe congelare la situazione attuale. Certamente. Io per chiudere l'argomento Napoli vi voglio far sentire una cosa carina, poi ho un'ultima domanda cattivissima per Paolo Condò. Sentite questa. Noi ci troviamo qui con il presidente di una squadra avversaria ma amica. Non si parla di vincitori e vinti, questo è il nostro modo di celebrare, non solo nel rugby ma anche nel calcio, il terzo tempo, che è quello dell'amicizia. Avete capito? Il sor Aurelio ieri sera ha fatto festa con dirigenti del Midland, dopo avergli rifilati 9. non è difficile fare terzo tempo dopo che gliene hai dati 9. Voglio vedere a parti invertite. E questi erano lì tutti divertiti, sorridenti, col bicchiere di rosso in mano. Paolo Condò, la domanda cattivissima che ti voglio fare prima di salutarti è questa: non c'entra niente con il Napoli, nemmeno con la Roma, c'entra con la Juventus. Allegri non rischia di finire prigioniero della vecchia guardia come Prandelli ai mondiali? Parli della difesa? Della difesa un po' sì. Della difesa sono molto parlo colpito. Dello spirito della Juventus. Buffon, Chiellini, Barzagli. No, allora no, Bonucci. Secondo me prigioniero non tecnicamente. No, da questo punto di vista no. No, io invece penso che possa restare, che sia rimasto anche un po' prigioniero tecnicamente, perché Rugani, per esempio. Due minuti in stagioni. Rugani è bravissimo, Rugani l'abbiamo visto nell'Empoli dell'anno scorso, difensore, Rugani è come Romagnoli, sono i due difensori giovani del calcio italiano, di grande prospettiva, di grande valore già attuale del calcio italiano. Mi ha colpito molto, per esempio, il fatto che Chiellini giochi sempre. Ecco, c'è che anche Barzagli, che io trovo sia un difensore più forte in questo momento, ecco, comunque quando i posti sono soltanto due giocano Bonucci e Chiellini. E questo mi ha colpito molto. È chiaro che Chiellini è un capoguerra, è un leader probabilmente fondamentale di questo gruppo, però mi sto riferendo all'errore che ha fatto in Champions contro il Borussia, che fa scopa con gli errori fatti l'anno scorso contro il Borussia Dortmund, con l'errore fatto contro il Monaco, ecco, secondo me se Chiellini cominciasse a giocare, a risparmiarsi per alcune di queste partite, perché le gioca sempre tutte, sarebbe una cosa positiva per lui e per la difesa della Juventus. Ecco, in questo senso ho l'impressione che l'evidente carisma del personaggio, del ragazzo, è una cosa che Allegri forse è un po' condizionato. Però possiamo dire una cosa: io non so se anche Paolo ha colto un po' di disagio di Allegri l'altra sera dopo la partita, quando a un certo punto ha detto: beh, però adesso basta per questa storia dei vecchi, dei giovani, perché così sennò non si va avanti. Che ci sia questo però è anche un meccanismo che ha innestato lui stesso, certo. Perché non è che Allegri si è tirato dietro in queste settimane a puntare il dito sui giovani. Ha un po' subito una spaccatura, la situazione. Ci fermiamo per la borsa. Paolo, ti ringrazio. Alla prossima. Ciao, grazie Paolino. Ciao, Paolo. Ciao. No, borsa. Ciao Carlo. Ciao Paolo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Si ricomincia. Convocati. Rimonte storiche, i nostri ascoltatori hanno ottima memoria. Giovanni Capuano qui con me, Pierluigi Pardo al telefono, Giovanni da Udine, Mauro da provincia di Vicenza, già convocati e pronti in attesa. Mennea Wells, Mosca 80, Mennea ultimo dopo la curva dei 100, Bartali nel 48, la più grande impresa sportiva anche per valore storico. Mentre i francesi si incazzavano, scrive Ado. Poi Raikkonen è l'unico mondiale vinto dalla Ferrari, rimonta su Alonso ed Hamilton. Ce ne sono molte, Fiorentina-Juventus da 0-2 a 3-2 con per la finale del Piero, scrive un ascoltatore su Twitter. Vabbè, ma c'è anche Gustav Töni su Gross, in un mondiale. Quello insomma metà la possiamo evocare. Infatti, italiano che supera italiano. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti, saluti. Dica. Il mio ricordo di una rimonta incredibile è proprio parlando di sci, come diceva adesso il suo ospite, quello dei mondiali che è morto del 74. Gustavo Töni a fine manche era, credo fosse addirittura fuori dai primi 10. Era ottavo. Vinse la medaglia d'oro e quella seconda manche è rimasta nella storia, perché poi è stata usata nelle scuole di sci come deciso da manuale. È una rimonta incredibile. E ancora oggi, anche se lo sci chiaramente è cambiato tutto, ma a rivedere quella seconda manche le imprese sportive però restano, al di là del fatto che sono cambiati i materiali, cambiati gli atleti, cambiato tutto quanto, però le imprese sportive restano. Mauro, provincia di Venezia, grazie Giovanni. Sì, buonasera. Salve. E grazie della convocazione, buonasera. Sempre in tema di grosse rimonte, io chiamo da San Donato di Piave, città di Moreno Argentin, Liegi, Baston Liegi, 1987, all'ultimo chilometro era credo un minuto da due corridori come Stephen Roche e Claude Criquillon, gli agguantò a 300 metri e vinse, credo fosse la terza Liegi-Bastogne-Liegi, poi ne avrebbe vinto la quarta. Anche perché Roche e Criquillon, se non ricordo male, fecero la guerra per un chilometro. Una guerra totale, beh, in tema di ciclismo c'è quella leggendaria di Pantani sull'Alpe di Pampeago che ci ricordiamo il giorno della, in cui gli scivolò giù la catena. C'è Basso Bitossi, anche quella la possiamo evocare a metà. Anche quella però, a metà. Pierluigi, sì. Tornando a, agli exit poll sul derby di Roma, ma la Roma dei primi sei minuti che mi sono rimasti impressi, da bollino rosso di mercoledì, non rischia qualcosa con la Lazio che ieri ha ripreso colore? Sì, sì, sì, ma rischiano tutte e due, nel senso che comunque è un derby comunque fra squadre grosso modo dello stesso livello, non è un derby così disallineato in termini tecnici, quindi è ovvio che siamo lì. La Roma nelle ultime partite ha dato una sensazione complessiva migliore secondo me rispetto alla Lazio, anche nell'ultima partita che hanno perso tutte e due, e alla fine è chiaro che gli episodi hanno pesato pure per la Lazio, però parlo degli errori di Marchetti, insomma la Roma ha giocato secondo me meglio, ha costruito di più anche in quella circostanza lì, quindi è chiaro che è favorita. Detto questo, ha una marea di problemi in mezzo al campo, perché gli infortuni dell'altro giorno, Florenzi che non sta benissimo, Maicon che è fuori, De Rossi, Pjanic squalificato, quindi insomma secondo me dal punto di vista tecnico questo tipo di problematica rende ancora più equilibrata se possibile la sfida. C'è anche l'aspetto del pubblico che è interessante, perché è la cosa perché più interessante, potrebbe un po' anesterizzare la partita, se realmente, mi auguro di no ovviamente, perché mi piacerebbe vedere un derby con le due tifoserie, però l'abbiamo detto in questi giorni, secondo me il diritto del tifoso, soprattutto quello che ha pagato il biglietto, di non entrare per una sua forma di coerenza e di dissenso nei confronti di un provvedimento che non ritiene giusto, mi sembra assolutamente un legittimo diritto delle persone, quindi voglio dire, se il tifoso non vuole entrare non entra, ci mancherebbe altro, gli facciamo il processo. Basta che non sia costretto a rimanere fuori. Il picchetto per non far entrare i tifosi, dai, mi sembra dici troppo? Professor Michele Plastino, buongiorno, cosa ne pensa lei? Buongiorno a voi. Lei cosa buongiorno, ne pensa? Ciao Pier. In questo momento devo dire, mi sono allontanato un attimo, dato che noi abbiamo orari spagnoli, stavo pranzando. Sì, ti abbiamo rotto le palle mentre pranzavi. Il clima oggi finito. Il clima oggi è da Gaeta. Sì, Michele, oggi è proprio da Gaeta. Sì. A Roma è straordinaria, è una giornata quasi estiva, Michele, cosa ne pensi di quanto ha detto Pardo pochi istanti fa? Non so se hai sentito. Sì, ho sentito, seguivo con grande interesse, sono d'accordo con lui, cioè il tifoso ha diritto, se la protesta è così civile, più civile di questa non può esserci, nel senso non vado, sarebbe troppo lungo per magari discutere se è giusto o non è giusto, però è giusto che la esercitano perché è molto civile. Sul picchettaggio non ho informazioni che questo possa accadere, cioè non è che mi sarei scandalizzato se fosse accaduto, ma ultimamente non è in linea con le volontà degli ultra impedire agli altri. È chiaro che se la situazione si protrae per lungo tempo, il problema è che nessuno dei gruppi organizzati vuole un'occupazione del territorio e che poi si basa tutto lì. Quello è territorio o è un palco tipo teatro, cioè tutto lì, o è invece un territorio acquisito, che poi è alla base di tutta la discussione. Sì, ma a me sembra, scusate, che l'intervista di ieri del prefetto Gabrielli al Corriere dello Sport sia arrivata al cuore della questione senza troppi giri di parole, sia sul fatto che le curve non sono un extraterritorio e quindi devono soggiacere alle regole, non sono casa di qualcuno, sono un posto meraviglioso dove si può anche seguire la partita in maniera diversa rispetto alla tribuna, ad altri settori, ma pur sempre all'interno di certe regole. E il prefetto ha avuto il coraggio di dire che a Roma questa cosa, a Roma e in altri posti, ma lui ovviamente parla per Roma, spesso non accade. E la seconda cosa, forse solo in Italia, la seconda cosa è che ha messo a nudo quella complicità che noi sappiamo esistere ovunque tra i club e queste frange di tifosi, parlando di che cosa è successo nei mesi scorsi nel rapporto con la Roma, soprattutto e in parte con la Lazio. Insomma, mi sembra che sia un'intervista da scolpire nella pietra quando si ragiona su che cosa accade in queste dinamiche. Michele e poi Pierluigi. Sì, io anch'io l'ho letta con, con grandissimo interesse. Era un'intervista dura, decisa, realistica, anche amara a mio avviso, anche un po' triste, però ha dipinto una certa situazione. Nel dipingere questa situazione ha lasciato in questo momento la palla proprio alle tifoserie organizzate. Sul discorso di Roma e di altre città, io sentivo prima quello che dicevi invece tu, sì, io direi che è un discorso molto italiano, molto. Per quello che riguarda... Dove altro può succedere una cosa così? Ma siamo purtroppo realisti, non ci stiamo piangendo addosso, siamo realisti. Però sull'occupazione del territorio e sull'extraterritorialità io credo che invece sia un fenomeno mondiale per quello che riguarda gli ultra. Adesso il perché, il percorso, non ne facciamo neanche un discorso né di attacco né di difesa, ma proprio direi sociologico, è una realtà il fatto che se tu vai anche a vedere una partita in Argentina in curva, se non sei uno di loro io non credo che tu entri. No, ma quello però, l'Argentina mi sembra è un caso estremo, Michele. È un caso, no, però è un caso molto estremo. Anche l'Inghilterra, che io personalmente adoro, no? Come sì, tipo sì. di calcio, però quindi non sto parlando né di violenza né di guerre civili, sto parlando proprio di occupazione del territorio, del concetto di extraterritorialità che aveva sottolineato Gabriele, anche l'ho sottolineato poco fa giustamente, no? In trasmissione. Quello io ritengo che sia un fenomeno allargato e quasi inevitabilmente corollario del postulato dell'esistenza degli ultra. Cioè gli ultra nella loro esistenza, nel loro essere, hanno anche l'occupazione l'occupazione di quello spazio che di quello spazio, è di loro competenza. E per questo io ritengo, è da lì che bisogna partire per capire il problema, perché è come se loro avessero avuto ormai la proprietà per l'uso, un termine quasi giuridico, e qualcuno nel dividerli abbia violato la loro intimità. Sì, sì. A me, dico la verità, è una cosa che non piace, perché quello spazio, nonostante l'uso capione, non dovrebbe essere di loro proprietà, dovrebbe essere un territorio comune per chi compie. Ma vi posso citare cosa succede in Spagna, dove il Barcellona ha uno spicchio di curva dietro la porta, vuoto, perché il Barcellona ormai da tempo ha deciso che non doveva più esistere una curva, e quello spazio continua invece a rimanere vuoto. A Madrid è il presidente che ha deciso di spostare di un anello gli ultras e ridurne la presenza, è successo di tutto, avrete letto minacce, insomma non ha passato delle settimane piacevoli. Evidentemente il problema non è solo nostro, però è il cuore del problema. Grazie Michele, ciao, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Posso fare soltanto una nota? Sì. Nel senso, per il derby, sì. Arbitra Tagliavento, io avrei fatto arbitrare Freud, perché le due squadre hanno problemi psicanalitici, neanche entrambe. Una è psicotica e l'altra è chiamata dell'AIA, che non è della sezione dell'AIA, perché è straniero, sì. Però era e noi, ma c'è stata la proposta di far arbitrare arbitri stranieri ad arbitri stranieri di certe partite, questa forse potrebbe essere una di quelle. Grazie anche Michele. Zombie, però. Anche zombie, Pier, Freud. Grazie Michele. Pia, lasciate l'ultima battuta, poi andiamo no, vabbè, sul discorso delle curve l'abbiamo fatto anche ieri. Anche tante volte. Ribadisco, insomma, è chiaro che il prefetto, dal suo punto di vista, l'incolumità è la cosa più importante, ci mancherebbe altro, questo non si discute. Però credo che si potesse e si dovesse cercare un coinvolgimento magari un pochino più diretto dei tifosi nello scegliere delle soluzioni, nell'arrivare a delle soluzioni. Il coinvolgimento invece che l'esclusione, e poi appunto ripeto, se la protesta verrà fatta sarà una protesta civile, perché non c'è niente di più civile del semplice diritto di non andare allo stadio. Mi auguro che non sia così, perché il derby di Roma in campo negli ultimi anni a livello di curve e di tifoserie è stato sempre bellissimo. Sappiamo che purtroppo c'è stato un corollario spesso ultimamente di tafferugli, soprattutto nella zona di Ponte Milvio, che mi auguro non ci sarà. E per quanto riguarda la partita, ha ragione Michele, nel senso che Freud può essere molto utile a tutte e due le squadre, sinceramente. Sicuro. Forse più alla Roma, forse più alla Roma. la Roma ha dato delle sensazioni talmente clamorose, talmente positive, e salvo poi perdersi in un bicchiere d'acqua. Ma secondo me, oltre a un bravo psicanalista, bello, psicanalista fa ridere, psicanalista, sì. Neologismo, sì, psicanalista, oltre a un bravo psicanalista, secondo me serve anche qualcuno che insegni un po' di possesso palla, che secondo me il problema è questo qui, non guasta, è eccezionale quando accelera, ma che fatica invece a tenere il pallone. Grazie Pier, ci sentiamo domenica. Saluto agli psicanaliti all'ascolto. Tutti i psicanaliti sono... È difficile pure dirlo, psicanaliti. Psicanaliti, sì, è più difficile che psicanalista. Beh, certo, tutta la vita. Ciao Pier. Ciao. Allora, Lorenzo Primo in questa sessione di Libere. Sì, si è svegliato gli ultimi 5 minuti. 1:31:111, torniamo subito. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Tutti convocati. Marino da Treviso, 1:11 alla fine della prima sessione di prove al Gran Premio di Valencia. Marino, dica. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Sono un motociclista di 70 anni. Grandissimo. E auguro a Valentino di fare quello che fece Marc Márquez a Valencia 2012, remontata dal 33esimo posto, sì, ultimo, a vincitore. Sì, vincitore la vedo dura. È uno scenario, anch'io, ovviamente ci speriamo tutti, ma... Sì. Prima abbiamo fatto un lungo discorso. Ma non è neanche detto che serva. Io e Giovanni Capuano. Non è neanche detto che serva. Ci sono le due Honda che saranno arbitri di questo mondiale, Pedrosa e Márquez. Noi dobbiamo concentrarci su di loro. Cioè, devono stare in piedi e dimostrare che hanno la moto superiore, come è stato negli ultimi Gran Premi. Primo, secondo, Lorenzo terzo. E Valentino può arrivare sesto senza nemmeno andare a scornarsi, sì, con nessuno. Quello è lo scenario ideale. È chiaro che se... Molto dipenderà anche dalle prove di domani. Se Lorenzo fa la pole e soprattutto fa i primi tre giri come è bravissimo a fare, cioè partenza perfetta e primi tre giri perfetti, staccando tutti, allora lì diventerà e diventerebbe davvero, davvero complicata. Intanto ha il miglior tempo del venerdì, 1:31:111, Pedrosa, Iannone, quarto Rossi, quinto Márquez, sesto Danilo Petrucci. Iannone si è inserito al terzo posto e questa è una splendida notizia, peraltro per vari giochi ovviamente tattici che possono riguardare questa gara. Francesco da Brescia, buongiorno. Eccezionale, qui Radio 24 con Carlo Genta, Pardo, Capuano, tutti insieme. Ciao ragazzi. Che è Francesco Piccinini. Francesco Piccinini. Volevo fare una piccola imitazione, sì, come se volesse fare la telecronaca Piccinini alla gara di MotoGP. Mi piacerebbe anche lì. Mi piacerebbe anche lì. Sì, sì. E secondo me, volevo chiedere una cosa solo del TAS, che avevo questo dubbio. Avevo letto che è vero che può darsi che anche a fine gara potrebbe perdere dei punti Valentino Rossi riguardo alla richiesta che va fatto, no, TAS, allora in linea teorica, ma stiamo parlando in linea teorica, rischia il giorno in cui il TAS entrerà nel merito di vedersi combinare una pena più pesante, però no, ma non stiamo parlando in linea assolutamente teorica. Anche dovesse il TAS decidere in direzione opposta, leggevo che comunque a quel punto a Valentino non rimarrebbe altro che chiedere un risarcimento economico, cioè comunque la sentenza non avrebbe effetto retroattivo e quindi non andrebbe a toccare i risultati di questo mondiale. Pertanto domenica si decide, non ci sono storie. Prego una parola su arretrati pensioni, non visto un centesimo, grazie Nino Trieste. Va bene, l'abbiamo detto. Giovanni da Milano, buongiorno. Ciao, siamo tanti livelli con i Gian vari, Detta alla Cruciani, siete ad alti livelli con i vari Gian, Gianluigi, Giampiero. Sì, tutti per G. Tutti per G. Sì. Sì, no. Invece una cosa, ma salomonicamente parlando, io non ho mai sentito parlare di una terza possibilità come penalità. Io avrei escluso Márquez dalla corsa. Proprio l'avrei escluso. Ma sulla base di che cosa? Ma ascolta, c'è stato un problema con Rossi, provocato o non provocato, Rossi ha sbagliato, secondo me. Io sono Rossi tutta la vita, ma ha sbagliato, ma Marquez, la sua punizione. Però Giovanni, Marquez, ma Marquez per cosa lo leviamo? Per l'atteggiamento? Non esiste nel regolamento del moto mondiale una penalizzazione per atteggiamento combattivo, cioè, non era possibile. Il discorso è che la situazione è stata gestita malissimo fin dall'inizio, fin dalla conferenza stampa, il silenzio dell'organizzazione, la latitanza dei giudici. È stato tutto gestito nel modo peggiore possibile, mi pare, Giovanni, tanto che qualcuno perderà l'incarico. Qualcuno perderà il posto, qualcuno che ha comminato una penalità a Valentino Rossi e poi è andato a raccontare in interviste che però anche Marquez aveva fatto qualcosa di antisportivo, seppure non dimostrabile. Io credo che questa vicenda, da un certo punto di vista, segni un prima e un dopo anche nell'approccio del pubblico col motociclismo, sicuro, con la MotoGP. Ci sono state altre storie, per carità, chi segue la MotoGP racconta di altri duelli grandissimi. Qui è successo qualcosa che prima non era mai successo. Credo che comunque finisca venerdì, resterà un'ombra domenica, grossa, sì, come una casa. Sì, scusa, no, domenica resterà un'ombra grossa come una casa. È finita un'epoca, è finita l'età dell'innocenza e non c'è tasca che la possa togliere, non c'è, no, penso non c'è ci nulla. Ci saranno sponsor che tolgono il grano, perché già sappiamo gli orologiai che sponsorizzano Lorenzo che hanno detto no grazie, non ci interessa più. La Repsol, storico sponsor della Honda, ha minacciato di scomparire. Però secondo me le parole del papà di Jorge Lorenzo sono la sintesi perfetta, cioè Marquez si è inserito a rovinare una cosa che non era più sua, non gli apparteneva, e l'ha rovinata, sì, irrimediabilmente. Attenzione che Cicco Lorenzo non ha splendidi rapporti con il figliolo, e sto usando un eufemismo. No, però la lettura è corretta, perché la verità è che Marquez ha rovinato qualcosa che non gli apparteneva. Questo è quello che andiamo dicendo da due settimane. Simone da Empoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Niente, volevo, per quanto riguarda il derby di Roma-Lazio, no? Sì. Io ho sentito anche l'amico Pardo prima e siamo tutti un po', come dire, abbastanza tranquilli nelle considerazioni. Io penso che bisognerebbe dire una volta tanto la verità, in questo senso. 300 persone, come possono bloccare una curva e dire agli altri tifosi guai a voi se fate il tifo? Ma stiamo scherzando davvero? Ma qui nemmeno nel Burundi ci ridono dietro. Non è possibile, in Inghilterra, in Germania, queste cose non sarebbero successe. Non sarebbe successo, volte... no, lo dico, l'ho detto prima, questa è una cosa tipicamente italiana, molto romana, ma che nessuno si offenda, perché il derby della capitale sappiamo da quali storie ha come corollario. Non sarebbe successo nel Burundi né in alcun altro luogo del mondo, io credo. Ci dobbiamo fermare per il GR, ma torniamo subito a 800240024 e parleremo la seconda mezz'ora tutta di moto mondiale. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Dunque, il venerdì di prove del MotoGP si è concluso con il miglior tempo che è di Lorenzo, 1.31 e 111. Valentino ha migliorato nella seconda sessione, è stato uno dei pochi a migliorare, 1.31 e 4, quindi un po' distante da Lorenzo. Siamo solo al venerdì, ma come detto siamo già in tensione. Giovanni Capuano, lo spirito delle grandi rimonte, come abbiamo potuto dimenticare Italia-Germania 4-3? Italia-Germania 4-3 l'abbiamo dimenticata, forse ce l'ha suggerito una mezza rimonta, però... Quello secondo me è lo spirito per eccellenza. Perché poi non si è vinto. Beh, dicevamo, sì. Hanno pareggiato poi loro, poi perdevamo, poi abbiamo pareggiato noi. Però quella è l'impresa, credo, sportiva italiana per eccellenza, e quindi possiamo serenamente rievocare anche Italia-Germania 4-3, ma allora possiamo rievocare anche la pallanuoto in Spagna, a casa del re. A proposito, sì, di Spagna, sì, abbiamo goduto quella volta lì, godremmo anche questa volta davanti agli spagnoli a portargli via il mondiale con Valentino Rossi. Ma non sai quanto. 1.31.111 per Lorenzo, secondo Pedrosa 1.31.377, terzo Iannone 1.31.444, quarto Rossi 1.31.475, quinto Marquez 1.31.481. Queste le prime 5 posizioni dopo il venerdì delle prove. Paolo da Milano, buongiorno. Ovviamente prima ho detto un'altra stronzata. Pantani, la rimonta di Pantani a Europa, non a Pampeago, come mi hanno suggerito in molti, ma io sono due nomi che confondo. Sì, come Giuseppe, come Giuseppe e Giovanni. E Giovanni, bravo. Paolo, buongiorno. Paolo psicologico, Rossi entrerebbe nell'Olimpo degli sportivi. E Lorenzo, chiaramente, questo quanto guarda Lorenzo. Volevo dire un'altra cosa sul calcio, sull'ipocrisia del calcio. Sì. Vi ricordate quando, mi sembra, Boateng, il calciatore del Milan, fece quella protesta? Sì, a Busto Arsizio. Ecco, perché tutti i giocatori di colore non si stanno comportando alla stessa maniera contro Tavecchio? Questo non glielo so dire. Se mai so giocatori ebrei o omosessuali in questo giocatori ebrei omosessuali. Le mangia banane, lì, bastava che si toglievano la maglietta e diciamo noi non giochiamo finché quel signore lì non si dimette. O perché si fa i deboli con i forti con i deboli? No, no, non credo sia questo. Insomma, mi sembrerebbe una cosa molto estrema. Io sono dell'idea che sbagliò quel giorno Boateng, che sbagliarono altri giocatori con proteste più o meno clamorose, come chi era Reggio Emilia al torneo, Constant. Poi ci fu Zorro a Messina, Inter, Eto'o più volte, perché così, sia in Spagna che in Italia. Secondo me quello è un modo plateale per sottolineare l'imbecillità di quella gente, insomma. È soltanto una maniera forse anche troppo plateale per sottolineare la stupidità di certi cori. Penso che possano esserci altre forme più magari anche più sottili, però forse più efficaci di protesta. Alessandro, provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo intervenire su Rossi Marquez. Intanto io dico subito che non sono un tifoso di Rossi. Sì. Mai lo sarò, non lo sono stato. Non è mica peccato, No, però, non è mica un problema. In Italia lo è. No, assolutamente, assolutamente. Allora, guarda, io sto parlando con uno che è favorevole al gufismo, al tifo contro, ovviamente in maniera goliardica, però ognuno ha il diritto sacrosanto di tifare tutto quello che gli pare, compreso Marc Marquez, maniera sacrosanta, in pace. Dica. In questo momento io non tifo né Lorenzo né Marquez né Rossi, diciamo che mi sta abbastanza simpatico Marquez, ma no, io volevo intervenire su un punto. Noi non ci ricordiamo però tutte le cose che ha fatto Rossi negli anni passati, cioè tutto quello che è stato concesso a Rossi negli anni passati, perché la Dorna è sempre stata subalterna a Rossi. Questo bisogna dirlo, secondo me, con chiarezza. L'abbiamo detto con chiarezza molte volte, Alessandro, e abbiamo detto anche il motivo per cui la Dorna ha sempre portato in palmo di mano Valentino Rossi, perché Valentino Rossi, come ha scritto anche il Paese in maniera molto chiara, è per la Dorna la gallina dalle uova d'oro, ma non c'è nessun mistero, nessun segreto in questo. Credo che a questo punto, visto che tra l'altro Rossi ha vinto un mondiale contro Stoner a Laguna Seca tagliando una sticcante, è inutile dire adesso, ma cioè svegliarsi adesso e dire ma Marquez ha fatto questo, Lorenzo vincerà un mondiale, non è giusto. E forse è tutto il sistema che è sbagliato, forse è Rossi che ha alzato l'asticella, non so, chiediamocelo. Ma c'è una differenza fondamentale. Possiamo fare una differenza fondamentale. Rossi ha fatto quello che ha fatto e poi ognuno legittimamente può dire ha gli il è stato concesso o non gli è stato concesso. Duelli Stoner, diretti, Gibernau, duelli diretti, Biaggi, contro avversari per il mondiale. Fate tutto quello che volete. Marquez ha fatto qualcosa che assomiglia a scansarsi, che se tu riesci a farlo senza lasciare prove evidenti, non è che gli altri dici, non capiscono. Tu dici con Lorenzo? No, con Rossi, cioè andare a ingaggiare un duello per far perdere Rossi equivale a scansarsi in una partita per favorire una terza squadra che non è in campo in quel momento, ed è una cosa profondamente antisportiva, cioè non è un fallo di gioco, è l'essenza dell'antisportività. Io credo sia questa la differenza e non mi risulta che sia una cosa che Valentino Rossi abbia mai fatto. e quindi che gli sia mai stata perdonata. Per cioè, questo secondo me c'è una differenza. Possiamo, io la penso esattamente allo stesso modo, quindi è inutile che ripeta le parole di Giovanni Capuano. Io invece vorrei salutare e ringraziare il sindaco di Tavoglia, Francesca Paolucci. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Sono un attimo in imbarazzo, devo chiamarla signor sindaco o signora sindaco? Ma io solitamente uso dire che signor sindaco va bene, anche signor senza sindaco signor, anche senza signor va bene. Allora sindaco, allora io intanto dica. Entro come si dice a gamba tesa perché ho sentito due battute. E lei va in moto? Io sì. Non avevo, chi non va in non moto? Avevo un mezzo dubbio. Vado in moto da parecchi anni, perché avevo 16 anni, quindi sì, sì. Sono tanti. Però volevo dire che la considerazione che avete fatto sull'antisportività è condivisa, è assolutamente vera. Sì, sì, ma lo ripetiamo da allora, nel senso sì, che, sì, nel sì. senso che un conto è fare a cazzotti in pista, esatto, quando sì. combatti, ma questo l'abbiamo visto certo. anche quante volte nella Formula 1, da Senna Prost in su o in giù dove vuole lei, quello ci sta, però quello ci sta. Questo è un episodio diverso, questa è un'altra cosa piuttosto, sa che sì. come lei saprà, tutta Italia sì. domenica vuole venire a Tavuglia a vedere la corsa sul maxi schermo. Sì, me l'hanno detto, ho sentito dire. Quanti ne possono entrare? Guardi, io mettiamo i tornelli. Allora, mi chiedono previsioni sul numero e non le posso fare perché non ne ho idea. So comunque che più di 5.000 persone non possiamo contenere, non ci sono gli spazi. Quindi eventualmente questo spazio, intendo centro del paese, poi sì. vabbè, tutto intorno ci si sta anche, però la gente quando viene a Tavuglia vuole stare nel centro. Chiaro, è chiaro, dove ci sarà il maxi schermo più ricercato d'Italia domenica? Sì, ne abbiamo messi due comunque, ne abbiamo messi due proprio per cercare di diluire un po' la gente che non si accalchi tutta sotto lo stesso. Lei ha avuto qualche contatto con Valentino le ultime settimane? No, io gli ho mandato un messaggio come faccio sempre dopo la gara di Sepang, e poi da noi quando torna Valentino deve stare tranquillo, quindi sì. nessuno di noi insomma cerca di contattarlo o altro, lo incontriamo ecco nella normalità. Hai capito Giovanni Capuano, lo incontriamo nella normalità. Beh, ma è la cosa più bella e io credo che Valentino tornerà anche con piacere dopo Valencia, perché sarà anche il momento di staccare la testa da tutto e insomma di tensione ne ha vissuta parecchia in questi mesi, perché è stata una stagione particolare. In queste settimane basta guardargli negli occhi, anche oggi la cosa più interessante al di là del cronometro è stato guardare negli occhi Marquez, Lorenzo e Valentino Rossi per cercare di cogliere le sfumature, e sono animi in tempesta. Lorenzo una maschera era di cera, Valentino con quegli occhi io sinceramente lo guardo da quando aveva 16 anni e non l'ho mai visto. Sindaco, ma invitate anche i tifosi di Marquez e Lorenzo? Noi non vorremmo essere inospitali assolutamente, ma direi che non è il caso. Direi che non è il caso, meglio parlarsi chiaro. Sì, sì, sì. Senta, le faccio fare una domanda invece da Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera e nostro amico a Valencia. Ciao Ale. Ciao, scusate ma sono entrato in collegamento solo ora, mi sono perso un po' stiamo parlando con Francesca Paolucci, stiamo parlando con Francesca Paolucci, sindaco di Tavuglia. Benissimo, piacere, buongiorno. Piacere mio, buongiorno. Il maxi schermo più ricercato d'Italia, vuoi sì. chiedere qualcosa al sindaco, a parte il fatto se va in moto o no, perché gli ho già chiesto io e va in moto da quando aveva 16 anni. Beh, immagino lì, se non vai in moto sei fuori dalla fuori. Città, immagino, quindi certo. figurarsi per fare il sindaco. No, beh, immagino che clima c'è lì, insomma, ecco, è banale, ma credo che in questo momento è il centro del mondo, è il secondo centro del mondo dopo Valencia, Tavuglia. Com'è la situazione? Noi diciamo che a parte il lavoro che stiamo facendo per cercare di accogliere tutte le persone che verranno domenica, ma c'è un'aria frizzantina, direi, c'è un'atmosfera bella, nonostante tutto penso c'è ottimismo. Che si respiri si respira la, l'affetto nei confronti di Valentino. Quindi c'è, sì, c'è ottimismo. Il partito Valentino ce la farà o il partito è dura, impossibile? Quasi. Allora, impossibile diciamo che è una parola che non usiamo mai, però diciamo che è più complicato. Sì. Serve a Valentino, dicevo in apertura, abbiamo visto fare di tutto su una moto, tranne una cosa, un miracolo sportivo, agonistico, emotivo, mentale, aggiungiamo tutti gli aggettivi possibili. Guardi, io sono, non lo so, sono come tutte le persone che tifano per lui in questo momento, consapevole della situazione, quindi teniamo conto di questo e tutto quello che verrà, dire, va bene, nel senso che sì. Ma questo è il grande vantaggio, sì, sì, Valentino, sì, Rossi domenica sera comunque vada, avrà fatto il suo, altri sì, se l'hanno perso, hanno perso la chance della vita, se l'hanno vinto si portano dietro comunque l'ombra, perché se Lorenzo vincesse questo mondiale avrebbe vinto un mondiale in cui in due gare, perché a questo punto tiriamo dentro anche l'Australia, c'è qualcuno che ha giocato per lui e scusate ma non è poco, No, non è poco, è chiaro, sarà un mondiale con l'ombra. Sono assolutamente d'accordo e su questo trova Tavuglia tutta nella stessa direzione, questo è verissimo, cioè il comportamento che dicevamo prima antisportivo di qualcuno avrà una misura importante su questo campionato. Sì, che non dimenticheremo mai, lo spartiacque nella storia, lo spartiacque nella storia del moto mondiale. Grazie, grazie signor sindaco, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Auguri anche ai vigili, di Tavuglia per domenica. Auguri anche ai vigili di Tavuglia. Alessandro Pasini, mi dai un commento su questa prima sessione del venerdì? Lorenzo 1:31:111 miglior tempo. Valentino ha migliorato nella seconda sessione, come la leggi? La leggo, io la leggo bene, se non fosse che Valentino deve partire ultimo, la leggo bene, perché comunque è un venerdì, vorrei dire persino atipico per Rossi, che in genere il venerdì va un po' zavorrato, invece l'ho visto già piuttosto reattivo e tra l'altro hai sottolineato bene, ha migliorato nel pomeriggio, che è un buon segnale. Certo. Aveva dei problemi sul quarto settore della pista, ha migliorato. Segno appunto che c'è e che probabilmente, anche se continuano a dire che lavorano come sempre, insomma l'idea è quella di diventare competitivi in fretta, subito e bene, anche perché un Valentino che va bene instino anche un tarlo nella mente di Lorenzo. Chiaro. Io credo che Lorenzo, quando ha visto oggi pomeriggio Valentino fare i caschi rossi, fare il primo tempo eccetera eccetera, qualche pensiero lo ha fatto. Tra l'altro Lorenzo ha questa dilemma, diciamo così, della gomma, cioè media oppure dura, che invece Valentino parrebbe non avere, cioè Valentino sembra, naturalmente stiamo parlando a caldo, quindi poi le analisi andranno fatte, ma sembra più convinto di quello che farà, cioè scegliere una gomma dura che darà affidabilità. Sì. Lorenzo ha fatto il tempo migliore con la media, che però si usura in fretta, e come sapete queste cose per i piloti diventano delle questioni epocali. È chiaro. Quindi vedremo un po'. Soprattutto però, se camminano sull'equilibrio di un filo psicologico. Bravo, per cui, esatto. Possiamo una cosa dire, Alessandro, sì, perché poi tu questa sensibilità ce l'hai. Allora, togliamo Valentino Rossi, tanto lui deve fare la sua gara, deve fare 15-20 sorpassi e arrivare lì. Noi dobbiamo capire e magari cogliere qualche segnale oggi, se le due Honda hanno la moto per stare davanti a Lorenzo, perché questo è il tema. Se Lorenzo arriva terzo il mondiale si può fare, se Lorenzo vince o arriva secondo onestamente diventa davvero un miracolo. Sono d'accordo, no, infatti questo è il tema decisivo, appunto, è capire gli altri, no, in particolare le due Honda. Ora io vi dico, a me sembra che le Honda ce l'abbiano il passo. Io ho visto un Marquez bene questa mattina, filino meno bene nel pomeriggio, però Marquez è difficile da valutare. Adesso io non voglio insinuare nulla, però capite che poi può anche andare bene, però bisogna vedere in gara anche la tattica che sceglierà di fare. Pedrosa sta bene, Pedrosa secondo me è il favorito di questa gara, anche perché è quello libero da eventuali altri pensieri. Quindi sì, le Honda possono stargli davanti. Io credo che uno scenario con le due Honda prime e seconda e Lorenzo terzo sia estremamente plausibile al momento. e quindi poi è chiaro che sono gli altri da interpretare, le onde eccetera eccetera, ma soprattutto lo stiamo dicendo tutti, la partenza. Io oggi prima sentivo anche dalla diretta televisiva italiana, ho sentito parlare di Bernau, insomma, appunto dice che tattica, la tattica è fare un grande primo giro. Chiaro, potrebbe chiaro. Giocarsi tutto nei primi 2-3 minuti, capite? Perché ma sai, Ale, la paura è imbottigliato, che... e quindi sfugge ogni pronostico, ogni scenario. Come fai? Bisogna vedere. Quando parti 3-0 e devi ribaltare un 3-0 in Coppa, sai, fai sì, tattiche, dipende. Ma poi... Guarda, l'altra faccia della medaglia è se Lorenzo fa quello che è bravissimo a fare, il più bravo di tutti a fare, cioè partenza perfetta, primi tre giri a cannone perfetti, allora lì comincia a diventare dura, secondo me. Anche difficile anche per le onda. Quei due dietro magari non si ammazzano per andarlo a prendere. Esatto. Mentre al contrario diventerebbe difficile per Pedrosa e Marquez alla prima curva davanti a Lorenzo essere superati facile. Lasciamo stare Pedrosa, fa gli affari suoi, l'abbiamo capito e va benissimo così. Però io immagino che Marquez un minimo di pressione ce l'abbia sulle spalle oggi, domani e domenica. L'avrete sentito, ha detto: se io riterrò di avere la chance di passare Lorenzo ci proverò. Qua nell'aria, chiacchierando un po' così, percependo, si dice che lui farà la sua gara e va bene. Bisogna vedere se la sua gara miracolosamente coincide anche con quella di Lorenzo. Sapete che l'espressione faccio la mia gara è sempre molto, come dire, volatile, anche negli altri sport. Faccio la mia gara, che vuol dire? Per cui vediamo, insomma, io non lo so, è chiaro che è molto difficile capire, perché è una gara che non abbiamo mai visto così e né mai credo vedremo più, quindi credo sia difficile da decifrare anche per gli stessi piloti. Sono due gare in una, sono due gare esattamente. Però il lato positivo dal punto di vista di Valentino è che comunque ieri io l'avevo visto molto giù e oggi invece è rimontato in moto, mi sembra che abbia ritrovato l'occhio che gli conosciamo. Sì, e sì. Poi tutto il resto sarà un'operazione di dettagli e anche di fortuna, diciamo la verità. Chiaro. E anche come forse dicevamo tempo fa, anche capire come Lorenzo gestirà la pressione. Giustamente voi sottolineavate la famosa teoria della fuga di Lorenzo, cioè Lorenzo va eccetera. Però appunto d'altro canto con un mondiale servito in mano bisogna vedere anche come la testa reagisce, e Lorenzo sapete che è un pilota da questo punto, un uomo insomma molto sensibile, adesso al di là delle critiche e tutto, però comunque ha una sensibilità anche bella in certe cose, perché comunque è un ragazzo molto accentuata. Diciamo è una di sensibilità molto forte, quindi in tutti i sensi questo potrebbe, chissà, ecco, io ripeto, un venerdì come oggi magari qualcosa insinua in lui, però vabbè, poi in questi momenti ci trasformiamo tutti in piccoli Freud. Guarda, la verità sai qual è? Che non vediamo l'ora che sia domenica alle 14 sì, perché questa terra ci sta uccidendo. Infatti, perché tutti disegniamo scenari, ma alla fine forse quelli che stanno meglio sono i piloti, perché alla fine loro corrono e come sempre chi va in campo è quello. Bravo. Che a me non invece noi tutti fuori, noi ci stiamo logorando ci ammazziamo dentro, di parole e poi immaginarsi i tifosi, quelli veri che stanno dentro una cosa, no, sapete bene, questi non dormono, abbiamo sentito prima ieri Tavuglia eccetera, per cui loro sono quelli che stanno meglio di tutti, perché comunque conoscono la situazione e hanno il polso, ecco, nel esatto. vero senso. Noi dobbiamo solo stare lì a aspettare. Grazie Ale, grazie Alessandro Pasini, grazie a voi, ciao, a presto, ciao, a presto. Ciao. Io mi scuso tantissimo con Carlo da Fermo, Andrea da Bolzano e Gabriele da provincia di Teramo. Non li recuperiamo, non riusciamo ad interrogare, se voglio, no? Li recuperiamo certamente domenica, ragazzi. Vi saluto con grande affetto. Vi do appuntamento a domenica alle 17. Saremo qui. Quindi alle 17, se voi volete, vi prenotate, chiamate 800 24 00 24. Tanto parliamo di quello. C'è anche il derby di Roma, c'è la Juve, per carità, vi raccontiamo domani, tutto. Però è il Valentino Day, comunque sia andata. Grazie. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Appuntamento a domenica alle 17. Ciao. Eccezionale, qui Radio 24 con Carlo Genta, Pardo, Capuano, tutti insieme.